9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti a 9 in punto da Simone Spezia. Anche oggi torniamo a parlare di politica, naturalmente, di quello che sta succedendo in Parlamento e nei dintorni, soprattutto al Quirinale, dove oggi il Presidente della Repubblica annuncerà chi è l'incaricato. Si parla, l'ipotesi più probabile, lo avete letto, lo avete sentito nei giornali radio, è quella di Giuliano Amato. Giuliano Amato dovrebbe essere il prossimo Presidente del Consiglio, almeno il Presidente del Consiglio incaricato, perché poi, ricordiamocelo sempre, la fiducia in Parlamento bisogna ottenerla, e visti i mal di pancia che abbiamo notato in giro, soprattutto dalle parti del Partito Democratico, non so quanto questa fiducia sia scontata, sebbene il voto per la fiducia, a differenza di quello per il Presidente della Repubblica, è un voto palese, e quindi insomma, i cosiddetti franchi tiratori non ci possono essere, o meglio, saranno molto franchi eventualmente, perché lo faranno palesemente. Tra poco ci collegheremo anche con alcuni esponenti del Partito Democratico. Iniziamo però a parlare con Flavio Tosi, sindaco di Verona, segretario della Lega Nord Liga Veneta. Buongiorno Tosi. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Allora, che vi pare a voi di questa ipotesi, di quest'ipotesi Amato? Iniziamo da qua, va? A noi pare male, nel senso che ci potevano andare bene molte altre figure. Poteva essere sicuramente Letta, una figura di profilo diverso, parlo di ovviamente Enrico Letta, perché è chiaro che il nome espresso immagino dovrà essere vicino a chi ha la maggioranza alla Camera, perché comunque una maggioranza alla Camera c'è, e quindi poteva essere appunto Enrico Letta, Matteo Renzi. Ci potevano essere delle figure insomma che rappresentavano il rinnovamento, che potevano dare un segnale positivo anche ai cittadini italiani, e ci pare che Amato non rappresenti, sicuramente non rappresenta il cambiamento, e non so quanto la sua figura possa essere gradita alla cittadinanza, visto le esperienze passate, insomma, cioè, a lui ha già escluso che non farà un prelievo forzoso, perché già lo fece, però da una figura come Amato, con tutto il rispetto per la persona, però dal punto di vista della pressione fiscale, ok, mi aspetto di tutto di più. Insomma. E quindi naturalmente una fiducia ad un eventuale governo Amato non la votereste, mentre invece vede maggiori aperture nel caso l'incaricato fosse Letta, per esempio, perché Renzi allora mi sembra che si possa escludere a questo punto. Io ho visto che ieri lei ha detto, insomma, tutto sommato potrebbe essere un'ipotesi buona, insomma, si sa che lei apprezza Renzi, lo ha detto pubblicamente in più di un'occasione, però insomma, tutto sommato, un governo Letta si potrebbe votare, la Lega lo potrebbe votare. Ma diciamo che un governo Letta, adesso bisogna vedere ovviamente anche quali sono i punti programmatici, perché non è che lo fai solo sulla persona, quindi bisogna vedere anche, perché a noi interessa che venga rimesso in piedi il paese. Per rimettere in piedi il paese devi fare in modo che le imprese possano competere, perché la crisi non è colpa del sistema economico, ma del sistema pubblico che ci grava sopra con dei costi insostenibili, perché la spesa pubblica, il debito pubblico, la burocrazia sono tutti elementi che dipendono dalla politica, non certo dal mondo delle imprese, e che però stanno soffocando il mondo imprenditoriale. Il programma deve partire da questo, quindi bisogna appunto vedere anche quali sono i contenuti, perché se invece si comincia a riparlare di manovre, di prelievi fiscali e quant'altro, allora vuol dire che non si è assolutamente capito qual è la priorità del paese. Qual è lo stato del paese. Esatto. Pippo Civati del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Speriamo che regga la linea, perché so che si trova su un treno. Molto brutalmente, lei la fiducia ad un governo quale che sia, con Amato, con Letta, ma comunque con il PDL che lo vota, la vota oppure no? No, io la contrasterò nel gruppo e poi decideremo in campo le forze, no, che avversano queste soluzioni. Nessuno nel PD sa quanto possano essere forti, diciamo, comunque con loro decideremo che cosa fare. Mi pare che richiami al senso, all'ordine, al senso dell'opportunità politica da parte di chi ha distrutto Prodi, Marini, ha combinato i pasticci che abbiamo visto, i 101 che non si dichiarano, beh, insomma, non siano accettabili. Prima c'è la politica e le segnalo che noi abbiamo cambiato completamente posizione nel breve volgere di un fine settimana. Oggi, allora, nei giorni scorsi Fioroni e Franceschini, oggi anche il suo capogruppo Roberto Speranza dice chi vota no alla fiducia è fuori dal partito, quindi c'è anche questa ipotesi che lei si ritrovi fuori dal partito. Pronto, ci sente? No, no, non ci sente Civati, adesso proviamo a ribeccarlo. Intanto io vi ricordo che potete scriverci su Facebook, www.facebook.com/9in.radio24, dove ci state scrivendo ancora su Rodotà, dite sul Partito Democratico, dovevano votare Rodotà, sulle vicende politiche. Laura ci scrive: niente di nuovo sotto il sole, il PD dovrebbe iniziare a togliere di mezzo un po' di vecchiume e andare di più a parlare con la gente per dire quello che vogliono fare loro indipendentemente dagli altri. Potete anche scrivermi su Twitter se volete, Simone Spezia, mi trovate abbastanza facilmente. Allora, torno a Flavio Tosi a questo punto, finché poi non recuperiamo Civati, per chiederle una cosa. In queste ore sta circolando l'ipotesi che non sostenendo la Lega un eventuale, appunto, governo di grande coalizione, presumibilmente quello con guidato da Giuliano Amato, si prospetti l'ipotesi che sia un gioco, no, per andare all'opposizione e poi beccarsi a presidenza di qualche commissione che spetta di diritto all'opposizione per sostanzialmente toglierla al Movimento 5 Stelle. Si parla del Copasir, si parla della vigilanza Rai, insomma. A questo punto, dato che la Lega è arrivata anche a votare Franco Marini, per spirito di coalizione, mettiamola così, perché sono fatico ad immaginare qualcuno di così distante da quello che siete voi come Franco Marini, insomma qualcuno ce n'è, però insomma è discretamente distante, non rischia di suonare come un'operazione un po' politicistica per togliere spazio al Movimento 5 Stelle o per prendersi qualche poltrona? No, ma mi fa sembrare che noi andiamo all'opposizione per questo tipo di motivazione. Noi ci si va se non si condivide la figura del Premier e se non si condivide il programma, perché ovviamente per far parte di una maggioranza bisogna condividere entrambi gli aspetti. Se ci fossero le condizioni, noi l'abbiamo già detto che avremmo sostenuto il governo, poi che ci si entri o meno con degli esponenti in maniera diretta o che magari si dia appoggio esterno, quello per noi non sarebbe un problema, ripeto, fermo restando che il Premier deve essere una figura, non dico scelta da noi perché non pretendiamo assolutamente questo, ma quantomeno che non sia assolutamente invisa e appunto che poi abbia un programma che possa essere condivisibile. Se faranno Amato, noi saremo all'opposizione. Questo non vuol dire che si vota no a qualsiasi cosa proponga il governo Amato, vuol dire che si valuta di volta in volta se ci sono delle proposte che possono essere positive a nostro avviso per il Paese, ovviamente le si sostiene, non è che si fa un'opposizione a prescindere. Naturalmente. Si faccia fare anche una domanda naturalmente sullo stato della Lega, in Veneto in particolare, insomma, perché poi chiaramente questo è un momento nel quale è un'occasione anche per voi, un momento, una sorta di pausa istituzionale, no? Nel quale riorganizzarvi e rimettersi insieme. Le spaccature che sono apparse nei giorni scorsi sono state evidenti, no, inutile negarlo, è stato lei stesso contestato. Come intendete uscirne e se riuscirete ad uscirne, insomma? Non è successo nulla di che, in realtà si parla di una trentina di persone a fronte di più di 20.000 iscritti e centinaia di migliaia di elettori, quindi sono fatti che possono accadere se dopo i cambiamenti molto profondi che sono stati in Lega, perché insomma sono stati 20 anni quasi di segreteria del movimento da parte di Umberto Bossi, e un cambiamento che profondo con Roberto Maroni, con una linea più moderna, più pragmatica, il superamento di certi brutti episodi, il cerchio magico, Belsito, i diamanti, i lingotti e quegli episodi là decisamente sgradevoli, e quindi è chiaro che ci possa essere nel tempo un po' di effetto trascinamento di quelle situazioni, con qualcuno che all'interno del movimento non accetta che le cose cambino, ma le cose, grazie a Dio, per fortuna in Lega sono cambiate, e quindi, ripeto, bisogna guardare l'entità dei fenomeni. Il fenomeno riguarda qualche decina di persone in un grande movimento, nulla di che. Ci scrive, a proposito dell'ipotesi Amato, Gustavo su Twitter mi scrive: non può il passato correggere gli errori del passato, non può il passato incarnare il futuro. Forse abbiamo recuperato Civati, è ricaduto un'altra volta, perché insomma gli volevamo chiedere di questa espulsione, di questa ipotesi di espulsione dal partito che stanno continuando a circolare. Gliel'ha detto Fioroni, gliel'ha detto Franceschini, gliel'ha detto persino il suo capogruppo Speranza. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Nel frattempo voglio leggere anche qualche altro commento su Facebook. Ancora Matteo Renzi è il nostro unico futuro nuovo e innovatore. Beh, insomma, questo da questo lato vedremo. Ci scrive Marco: ma se si fa questo inciuso non poteva essere fatto 2 mesi fa, tutta questa farsa solo per far fuori Bersani? Ma insomma non mi sembra che la cosa sia questa. C'è Pierluigi invece che ci scrive: Tosi, la Lega è un'opposizione di facciata legata a doppio cappio col PDL. Che lo dice questo? È un ascoltatore su Facebook. Non è un... Ah, il fatto del rapporto col PDL. Beh, sì. È chiaro che col PDL noi abbiamo un rapporto di alleanza solida a livello territoriale nelle regioni del nord dove governiamo insieme. Abbiamo una condivisione su alcune altre realtà territoriali in altri comuni, che poi è chiaro che a livello di governo è un interlocutore il PDL privilegiato per questo tipo di motivazione, ma questo non vuol dire che si faccia la stessa cosa, perché se ci fosse un governo Amato, per esempio, questo appunto dimostra esattamente il contrario di quello che è stato postato. Se ci fosse il governo Amato, da quello che si capisce, Berlusconi e il PDL accetteranno di farne parte e la Lega no. E quindi evidentemente ci siamo assolutamente liberi, come è normale che sia, a livello di Parlamento nazionale. Noi non siamo forza di maggioranza, abbiamo perso le elezioni e quindi ci muoviamo in libertà, cercando di fare delle cose, delle scelte che secondo noi siano ragionevolmente vicine agli interessi di questo paese. Nicoletta ci chiama da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo esprimere un po' di perplessità rispetto a tutti e due i candidati, sia Amato che Letta, però se devo scegliere tra i due, sceglierei Letta, con la speranza, diciamo, che non sia così ubbidiente nei confronti dei diktat europei e che tenga conto anche delle istanze di rinnovamento che ci sono e che vengono dalla gente. Di sicuro non Amato. Mi pare proprio non passato, ma trapassato oramai. Sentiamo anche Walter che ci viene da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Sì, la scelta d'Amato per unire la popolazione italiana secondo me è giusta. Infatti saranno tutti uniti contro Amato, perché rappresenta tutto ciò che è stato fatto di male negli ultimi 50 anni. L'incarnazione dell'errore. Non so come possa il presidente napoletano per pensare a una cosa del genere. Io non si tiene veramente conto del sentimento delle persone, la distanza tra la politica e l'opinione pubblica diffusa è allucinante. Grazie. Grazie Walter, sentiamo anche Luciano che ci chiama da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, riprendo anche l'ultimo commento dell'ascoltatore, perché fondamentalmente anch'io volevo dire la stessa cosa, c'è una distanza abissale tra il paese reale e quello che è la nostra classe dirigente. Nello specifico il Partito Democratico, a mio avviso, ha un problema, ma ha un problema nella nascita, un partito bitri teste, quadri teste, insomma un partito che non ha una direzione ben chiara, molto ambiguo su tante questioni fondamentali. Questo si è palesato nella, in quello che abbiamo visto tutti, nella votazione per il Presidente della Repubblica. Non poteva essere altrimenti, a mio avviso, perché varie anime molto discordanti tra loro, ma anche da un punto di vista proprio di basi valoriali, di basi etiche a un certo punto, sono andate in cortocircuito. Resta il fatto che purtroppo tutto ciò ricade su noi cittadini, su tutti noi, perché si devono fare delle scelte ben precise, ci vuole un governo politico che ha in mente anche una strategia per risollevare le sorti della nostra nazione. Il problema è che con un governo tecnico, perché a mio avviso alla fine sarà così, sarà un governo sì di larghe intese, ma che potrà fare ben poco su questioni tipo l'economia soprattutto, o tipo anche altre questioni sociali e quant'altro. Quindi è un'ulteriore sconfitta di questa classe politica e purtroppo da elettore, lo dico anche del centro-sinistra, della sinistra, io sono doppiamente deluso, perché pensavo che ci fosse anche un senso di responsabilità diffuso nella classe dirigente del Partito Democratico. Così non è stato, che traggano le conclusioni a questo punto. Sì. Se si devono dividere le strade, che si dividano queste strade. Dice. Prima di chiudere questa parte, salutare Flavio Tosi. Ho un'ultima domanda per Flavio Tosi, perché c'è una questione che noi abbiamo preso molto a cuore quando abbiamo trattato anche il tema dei debiti della pubblica amministrazione verso le aziende, e con alcuni appunto sindaci veneti abbiamo parlato anche di questo. Prima battaglia per la revisione di questo patto di stabilità per i comuni virtuosi, Tosi, immagino, perché è una cosa che sinceramente io continuo a ritenere inaccettabile, insomma, dal punto di vista pratico, insomma, non riuscite a sbloccare i soldi anche se avete i conti in ordine. Immagino che questa sarà una delle prime cose sulle quali lavorare. Sì, allora, fermo restando che noi come amministrazione comunale da 6 anni a questa parte, la scelta nostra, quindi da quando governiamo, la scelta nostra è quella di pagare i fornitori a 30 giorni. Il Comune di Verona paga mediamente a 27-28 giorni, sì. Cioè noi non abbiamo mai lasciato nessuno. Come sa, naturalmente, Tosi, però non mi riferisco solamente a quello, ma più in generale agli investimenti. Dicevo che noi come scelta abbiamo fatto questa, quindi noi fornitori li paghiamo tutti regolarmente a 30 giorni. È chiaro che facendo questa scelta, essendoci il patto di stabilità, andiamo a incidere negativamente su altro, quindi in termini di opere pubbliche, le strade, i marciapiedi, quello che servirebbe comunque ai cittadini, finisce in secondo piano, con dei paradossi del tipo che magari a dicembre dovresti poter spendere un sacco di soldi perché si allentano i vincoli, perché hai i soldi in cassa, e il mare non li puoi spendere perché piove. Cioè sono veramente delle cose allucinanti che derivano dall'applicazione del patto di stabilità, che via via è sempre stato reso più rigido, anziché essere allentato fino adesso è sempre stato reso più rigido, senza alcun motivo plausibile, perché in realtà si scarica sui comuni una parte del buco dello Stato, con un trucco nei confronti dell'Unione Europea si fa finta che i conti dello Stato siano un po' meno fuori posto, ma in realtà non sono i conti dello Stato centrale, ma sono i conti degli enti locali, che in questo modo vengono penalizzati, quindi si fa un danno alle imprese, un danno all'economia, un danno ai cittadini, per un trucchetto contabile nei confronti dell'Unione Europea, in un paese come il nostro che comunque ha i conti che sono assolutamente in dissesto. Quindi se almeno, visto che si parla di crescita, di far ripartire l'economia, un modo sarebbe anche questo, perché se mi lasciassero spendere i soldi che ho in cassa, potrei almeno fare opere pubbliche e quindi dare servizi e far girare un po' di più l'economia. Grazie Flavio Tosi, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Saluto Dario Nardella del Partito Democratico, deputato, già vice sindaco di Firenze, possiamo dire renziano Nardella, perché insomma, ormai è entrato nel lessico comune. Buongiorno, sì, buongiorno. Si può dire. Cercherà di guarire. Allora abbiamo una pausa e poi siamo con lei, a tra poco. 9 in punto. Allora, con Dario Nardella del Partito Democratico, parlamentare vicino a Matteo Renzi. C'è oggi il vostro capogruppo Roberto Speranza che in un'intervista dice, ma in realtà è una cosa già detta da Franceschini e da Fioroni, chi votasse un no a questo governo, chi votasse no alla fiducia a questo governo, chi si opponesse sarà fuori dal partito. Le sembra un modo di procedere corretto? Cioè, non è giusto anche che ci siano dei casi di coscienza, per così dire, in merito al rapporto con il PDL da parte di deputati che la pensano magari diversamente da lei? Ah, senta, in questo caso si tratta di una scelta politica, quindi è bene discuterne fino in fondo e far emergere tutte le perplessità, dopodiché però quando il PD vota su una scelta di questo tipo è chiaro che deve essere coerente e chi vota la fiducia deve seguire l'indicazione del partito, altrimenti davvero sarebbe l'anarchia. Quindi è d'accordo in sostanza, cioè chi non vota è fuori dal partito, che non vota la fiducia. Io sono d'accordo, ma varrebbe come principio generale, non solo in questo caso. È evidente che bisogna però consentire a tutti di discutere ampiamente di questa linea. Io per esempio ritengo che una differenza sostanziale con Berlusconi su questo governo è che questo governo non può essere un governo politico, strategico, che governa 5 anni la durata di una legislatura. È un governo di emergenza del Presidente, quindi con un accordo PD-PDL, e non può essere diversamente, lo ha spiegato anche Napolitano alle Camere, ma che duri lo stretto necessario per fare quelle 3-4 cose fondamentali. Posso anche, come dire, esemplificarle dal mio punto di vista, ma il taglio ai costi della politica e anche alle province, abbiamo assistito alla farsa con il governo Monti sulle province, si levano o non si levano, la legge elettorale, basta una settimana, le misure urgenti per la ripresa dei consumi, sul tema del rilancio delle imprese e del lavoro. Se si limita ad un programma stretto di emergenza è un discorso, se invece bisogna costruire un'alleanza che duri 5 anni con un governo strategico, allora è chiaro che per il PD è insostenibile un accordo con il PDL. Ce lo dica un po', ma ieri Matteo Renzi era pronto a salire al Quirinale per farsi dare l'incarico o no? Ma per come conosco Matteo, è una persona che preferisce sempre entrare dalla porta d'ingresso. Lo ha anche detto, io ritengo che il consenso che lui ha tra gli italiani sia la sua fonte maggiore e anche la sua ispirazione vera. Dopodiché se il presidente Napolitano lo chiamasse è chiaro che non si tirerebbe indietro, ma mi pare che sia ora l'ipotesi più improbabile, sarebbe stata certamente una scelta rivoluzionaria. Ho notato che colui che veramente ha posto il veto su Renzi è Berlusconi, ma per un semplice motivo, perché lo teme, e l'unica persona che può batterlo è Berlusconi, non lo vorrebbe mai vedere a capo del governo, sarebbe come dare la Ferrari a Schumacher, secondo me. Lei cosa immagina? Un voto ad ottobre, immagina? Un governo di breve periodo o con un periodo un po' più lungo? Ovviamente non posso essere, non ho diciamo il ruolo per poter dettare i tempi, però mi immagino un governo che faccia appunto, come ho già detto, le cose necessarie sia sotto il profilo istituzionale che delle scelte di politica economica, e quindi è chiaro che non può avere un orizzonte che duri degli anni, ma che possa ragionevolmente rientrare nell'arco di un anno. Altrimenti, ripeto, sarebbe un'altra cosa. Se invece rimaniamo a questo livello, governo del Presidente con un'alleanza che è un'alleanza necessitata, non sarà una brutta parola, necessaria, allora possiamo spiegarlo bene come Partito Democratico ai nostri elettori, perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale, io ho fatto una campagna elettorale spiegando che il mio avversario è il PDL e il Movimento 5 Stelle. Se oggi ci troviamo in questa condizione è perché sono i fatti che ce lo impongono. Il 5 Stelle non vuole fare nessun governo, sono 2 mesi che ci proviamo, sotto gli occhi di tutto l'indisponibilità, salvo poi il tentativo goffo di un baratto con la presidenza Rodotà, ma che io ritengo del tutto tattico, e quindi esclusa quella ipotesi non resta che quella con il PDL. Ma ripeto, non si può costruire un'alleanza strategica di chissà quanto tempo. Sì, di chissà quanto. Mi scrive Simone su Twitter, il mio account è Simone Spezia, mi scrive Simone su Twitter, che probabilmente è fiorentino come lei, perché dice: con il programma scritto ai saggi e voluto da Napolitano, il Presidente del Consiglio lo potrebbe fare anche la mia figliola. Sentiamo Angelo che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io purtroppo sono d'accordo con i radioascoltatori precedenti, che Dio ci scampi da un altro governo amato. Purtroppo mi ha messo già le mani in tasca nel 92, non vorrei che lo facesse ancora, veramente. Per quanto riguarda questo governo sono d'accordo, deve durare un anno, ma non si deve occupare solo dell'abolizione delle province, un tetto alle pensioni di anzianità, la revisione degli stipendi degli alti funzionari pubblici, perché sono scandalosi, scandalosi veramente, è una cosa vergognosa, fuori, non esiste in Europa, non esiste da nessuna parte, per cui mi auguro che facciano la svelta e poi entro un anno si torni a votare, ecco. Grazie. Nel frattempo, parli del diavolo e spuntano le corna. Abbiamo avuto Flavio Tosi fino a 5 minuti fa che ci parlava di Belsito. Ebbene, l'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per associazione delinquere e truffa aggravata in relazione alla famosa inchiesta sui fondi del Carroccio. Abbiamo sentito, Nardella, prima che lei intervenisse, qualche ascoltatore, devo dire molti anche su Facebook, su Twitter, mi scrivono: per carità, amato no, un po' come dice quest'ultimo ascoltatore che abbiamo sentito, non può essere dannoso per il Partito Democratico andare a sostenere un governo che ancora una volta, un po' come per il voto su Marini, che i cittadini, la popolazione percepiscono come un recupero di qualcosa di vecchio, insomma, al di là, no, poi della sostanza, però c'è un'esigenza di cambiamento forte che anche voi, intendo, per voi intendo Renzi e il suo gruppo, avete cercato di rappresentare e che oggettivamente Amato non rappresenta. Non lo dica a me, appunto, nel senso che noi avremmo visto bene Renzi, anche se siamo consapevoli, vorrei dire con molta chiarezza, che non possiamo tirare per la giacchetta il presidente Napolitano. Siamo andati in ginocchio a chiedergli di restare perché incapaci di trovare una soluzione diversa, e ora mi sembra un po' difficile che si voglia imporre qualunque nome o scelta, e quindi è Napolitano che farà un passo decisivo in questa direzione. Però io vorrei, anche riguardo a quello che ha detto il radioascoltatore ultimo, che ci concentrassimo sulle cose anche da fare, al di là di cioè più che le bandierine di appartenenza dei ministri. A me interessa sapere la capacità dei ministri, di chi guida il governo, e cosa c'è da fare. Cito un caso che a me sta molto a cuore, perché da vice sindaco di Firenze per 4 anni ho seguito molto questo aspetto del fiscale, e cioè che il 1° luglio, se non succede nulla, se nessuno fa niente, l'IVA aumenterà di 1 punto percentuale. Lei lo sa Nardella, che abbiamo un contatore quotidiano che va in onda. Non a caso lo cito, perché so che è una vostra battaglia. Allora le dico questo: l'Istat ci dice che nei primi 2 mesi del 2013, d'accordo, il calo drastico dei consumi ha portato ad una riduzione delle entrate per l'IVA di 1 miliardo e 200 milioni di euro rispetto al periodo dell'anno precedente. Questo spiega una cosa molto semplice, che aumentare le tasse, ma nella fattispecie proprio l'IVA, che tra l'altro è correlata direttamente ai consumi, in una situazione di stagnazione, di crisi dei consumi, non porta assolutamente a nulla, se non a una spirale che comprime ulteriormente i consumi e che, tra l'altro, non lo si dice mai, ma spinge anche all'evasione fiscale. Allora, queste cose deve fare il governo subito, immediatamente. Sì, mettere mano, poi, ad esempio, a questo problema. Poi, cioè, poi non neghiamoci nemmeno, che i nomi comunque sono importanti, perché poi No, ha ragione, infatti le dicevo anche le capacità, insomma, al di là del manuale Cencelli, che a me francamente non entusiasma. Appunto, dobbiamo vedere cosa si deve fare e chi dovrà occuparsi di questo, non c'è dubbio. Sentiamo Franco che ci chiama da Pistoia, buongiorno. Franco, ci sente? No. Sì, la sento. Ecco, vada. Senta, io intanto volevo dire appunto che questo governo Amato, secondo me, è la distruzione totale per questo paese. Perché se si ricordano ben bene quello che ha fatto prima, mi sembra che sia inopportuno mettere al governo una persona, un personaggio così. Io la penso e la vedo in questa maniera. Poi, non so, il resto degli italiani... Grazie Franco, non è il solo. 9 in punto. Ancora Anna mi scrive su Twitter: visto che il brodo si fa con quel che c'è, meglio Letta di Amato. Massimo da Pescara, buongiorno. Buongiorno, semplicemente volevo raccomandare a Renzi di non entrare nella lotta per il Presidente del Consiglio, perché potrebbe trovarsi infischiato nel pantano del berlusconismo o dei voti contrari, perché Renzi è una riserva strategica per le prossime votazioni politiche. Molto semplice, grazie. Comunque l'ipotesi mi sembra esclusa, insomma. Nardella, nell'idea di qualche deputato dei cosiddetti giovani turchi, e penso ad Orfini naturalmente, di proporre Renzi appunto come candidato premier, come premier, o meglio come premier incaricato, sì. Avete letto il bacio della morte, un tentativo di bacio della morte? No, non direi, certo, comunque il tentativo di dare una scossa non solo al paese, perché Renzi certamente sarebbe una spinta fortissima, come ho detto in una battuta, guiderebbe un'Italia smart, ma anche una svolta al Partito Democratico, perché io sono assolutamente d'accordo con Massimo, radioascoltatore, sul fatto che è una risorsa straordinaria. A questo punto Nardella, la lotta è per la segreteria, mi sembra di capire. Io ritengo che i tempi siano veramente maturi, se non urgenti, perché si faccia un congresso presto e dia la possibilità a Renzi di cambiare dalle fondamenta il Partito Democratico con un gruppo dirigente rinnovato, per ridare anche speranza, ispirazione e soprattutto ridare la carica al Partito Democratico. Quindi correrà per la segreteria Renzi? Non devo dirlo io, risponderà lui alla domanda, a me piacerebbe vederlo. Sì. Va bene, gliela faremo quando deciderà di accettare l'invito naturalmente. Sentiamo Giambattista da Bergamo, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, Giambattista, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Senta, dicevo semplicemente solo questo, insomma, dopo anni, 20 anni che questi politici hanno fatto pochissimo per i problemi che in concreto noi abbiamo in Italia, ancora oggi li stiamo a sentire che fanno meline, fanno strategie, stanno lì a pensare con chi ci mettiamo, quanto dureremo. Cominciamo a fare questo governo e vediamo che cosa fa concretamente, poi lo misuriamo in base a quello che fa, perché qui noi stiamo morendo. Non si può continuare a essere così. Oddio, tutti gli ascoltatori che chiamano da Bergamo, evidentemente come quello che mettiamo all'inizio della nostra trasmissione, insomma, concludono la frase dicendo che stanno morendo. Insomma, il paese oggettivamente in difficoltà, però insomma, ecco, forse è un po' dura in questo modo. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno Spezia, sono fortemente convinto che chiamo tra l'altro da una regione dove già è morto tutto, chiamo dalla Campania, chiamo da Napoli dove è già andato via tutto, insomma tutti sanno la situazione del comune e quant'altro. Sono convinto che il PD debba fare un governo, purtroppo lo debba fare con Berlusconi, non è riuscito a farlo diversamente. Non è riuscito, anche per la posizione rigida dei grillini, a farlo col Movimento 5 Stelle. Mi dispiace che non ci sia al telefono Civati, perché una posizione come quella di Civati, dopo tutto quello che il Partito Democratico non ha dimostrato di fare, è una posizione assurda e oserei dire ignobile. Attualmente è un PD anarchico, dove ci sono tante teste, dove tutti vogliono, dal mio punto di vista, tutti vogliono comandare, tutti vogliono decidere. Si sa che un partito è fatto di aree, ma un un certo punto un partito, se il partito è dignitoso, prende una linea e porta avanti quella linea, benché a maggioranza. Grazie Antonio, quindi... grazie Antonio. Riccardo da Catania, buongiorno. Buongiorno, io innanzitutto per sgombrare il campo devo dire che alle primarie sono faticosamente iscritto e ho votato per Renzi. Ci ho detto, mi chiedo, la prima domanda che vorrei fare è questa, ma se il programma è quello di fare un governo a breve durata, perché si è votato Napolitano, che ha un'intenzione assolutamente diversa? Seconda cosa. Ma alla fine andare a fare un governo comunque con Amato, Berlusconi, ma c'è un minimo di dignità, diciamo? Ma dopo una campagna elettorale che era basata su tutt'altro discorso si fanno queste proposte. Ma ultima domanda, ma un governo Amato poi affronterà il problema delle superpensioni d'oro quando lui è il primo titolare di queste pensioni? Ecco, io credo che ci vorrebbe un minimo quantomeno di coerenza, ecco, proprio per usare la migliore parola, ecco, grazie. Grazie, grazie. Nardella, voglio che risponda soprattutto sulla questione del famosa, la famosa questione, la vexata questione ormai del governo con Berlusconi, e poi risponda ad una mia domanda in maniera molto secca. Vi spaccherete, si spaccherà questo Partito Democratico, perché le avvisaglie ci sono tutte. Allora, sulla questione del governo io l'ho già detto, noi non abbiamo molte strade, cioè o facciamo un governo in queste condizioni oppure andiamo a elezioni. Però a proposito di quello che diceva il radioascoltatore di Bergamo, noi dobbiamo dare delle risposte immediate. Come faccio io a spiegare ai 1200 lavoratori della Selex, una grande azienda di finmeccanica a Firenze, che passati 60 giorni, 2 mesi, ora ci dobbiamo rimettere di nuovo a preparare una campagna elettorale, elezioni e chissà cosa verrà fuori con l'attuale legge elettorale, con il Porcellum? Come faccio a spiegarglielo io a questi lavoratori? Allora, ora la cosa più urgente è avere un governo subito che faccia che prenda in mano le questioni di maggiore rilevanza, che non sono più differibili, non sono più rinviabili, comprese anche quelle istituzionali della legge elettorale, lo ha detto Napolitano. Quindi io seguo la traccia che ha dato Napolitano da questo punto di vista. Il Partito Democratico si spaccherà. Antonio da Napoli dice deve recuperare un minimo di umiltà. È vero, è curioso che prima a capo chino andiamo da Napolitano a dire non siamo in grado di fare, di dire, di esprimere alcuna linea, e poi dopo 2 giorni ricominciamo di nuovo a litigare e a dibattere. Allora, un minimo di senso, di realismo e di umiltà. Il Partito Democratico in questi giorni ha l'elettroencefalogramma piatto, deve reagire, ma deve reagire a partire dal ricambio del gruppo dirigente, mettendo in campo un'idea forte, innovativa, deve recuperare quella ispirazione, quella vocazione maggioritaria, e deve farlo anche guardando in modo nuovo alla società civile, non solo parlando ad alcuni spaccati. A proposito di spaccati, la domanda è: ci spaccheremo? Non lo so, io mi auguro di no. Un grande partito deve essere capace di trovare una sintesi dei valori. Però, però è probabile a questo punto. Non lo si può escludere, ha ragione. Non lo si può escludere. Ma voglio arrivare, diciamo, a me piacerebbe cominciare un confronto vero finalmente, mettendo in un cassetto una volta per tutte questa idea di un partito di federazione di correnti e di potentati. Non voglio aver paura di parlare di leadership forti, perché ormai qualunque grande partito deve affrontare il tema della leadership. Noi, per non affrontare il problema delle leadership forti, abbiamo tenuto a galla correnti e correntine nell'illusione di poter arrivare a governare il paese. Nardella, la devo interrompere perché stiamo chiudendo la trasmissione. Sì. Grazie per essere stato con noi. Chiedo scusa a Ciro da Foggia, Valerio da Milano e a tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire. A differenza di Alessandro Milan, il sottoscritto Pelandrone, la trasmissione di domani l'ha registrata, però stateci, perché è una bella trasmissione che abbiamo dedicato a una forma particolare di resistenza, visto che il 25 aprile è la resistenza contro l'Ndrangheta. Intervisteremo un giornalista sotto scorta, un magistrato, insomma ne sentiremo di interessanti. Grazie ad Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto, buona giornata. Ricordati, mancano 67 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre,